Vot Antonio, italiani, elettori, inquilini, coinquilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo, Antonio La Trippa, italiano, vota Antonio La Trippa, italiano, vota La Trippa. Un'altra radio Roma. Adepti e adepti, siamo incominciati. Un'altra radio Roma. Se mi socia. Podcastesimo. Un'altra radio Roma. Nuova religione, il podcastesimo. Podcastista. Signore Santissimo Podcast della regione del podcastismo. Podcastismo, nuova religione. Io sento squillare qualcosa, già ci sono venuti a piacere. No, no, sei cretini. Finalmente, dopo la pausa estiva, siamo di nuovo insieme. Oggi a tenervi compagnia per voi, Mr. Gasperino! Come avete già visto, siamo tornati, siamo sempre noi, non è cambiato nulla. Una sola cosa è cambiata. Che siamo incazzati! Siamo incazzati con questo mondo che non ci permette più di vivere, con questa politica che pensa ai propri bisogni e non ai nostri. Ma siamo qui sempre noi. Sempre noi quattro, quei quattro pazzi dell'Altra Radio Roma. I VJ che vi terranno compagnia quest'anno saranno sempre gli stessi. La musica, no, la musica è quella degli artisti che trova spazio e sfogo attraverso queste onde di questa web radio fantasma. È giunto il momento di riprendersi l'Italia. Questa web radio non ha mai fatto politica apertamente, non ha mai detto nulla apertamente, ma una propria idea, una propria convinzione la ha, perché è formata da quattro persone che hanno una testa e che la utilizzano per ragionare. Pensa un po'. Che strana cosa, in un'Italia dove per 25 anni ci hanno abituato a vedere il mondo in maniera diversa, pensavamo che tutto fosse finito lì, con Tangentopoli, invece no, abbiamo toccato ancora il più fondo. Ma quando ci daremo una spinta per tornare verso l'alto? Noi qui a Un'altra Radio Roma, l'unico modo che abbiamo sempre fatto politica è quello di presentarvi artisti che hanno scelto un sistema e un modo di diverso di raccontarsi e di proporre la propria arte. O perlomeno può essere visto come un trampolino di lancio verso le grosse piattaforme musicali. Un'altra Radio Roma c'è? È qui per loro e per tutti quelli che hanno voglia di utilizzare i nostri spazi. Ma da quest'anno vogliamo essere più diretti e dire il nostro pensiero attraverso questa web radio e lasciare gli spazi giusti per tutti quelli che vogliono raccontarsi. Detto questo, ho detto già tanto, andrei a iniziare con della bellissima musica. Loro vengono direttamente da Stoccolma e ci presentano Look at That Rabbit Go e sono gli Happies. Vot Antonio. Inquilini, coinquilini, condomini casigliani, quando andrete alle urne per compiere il vostro dovere, votate la lista PNR, Partito Nazionale Restaurazione, scegliete un numero solo che è tutta una garanzia, tutto un programma, 47! Morto le palle! E fessa chi non sta zitto, ma guarda che numero mi hanno dato! We'll be right back. Ve lo giuro che non lo sapevo. Il gruppo che vi sto per presentare propone una musica veramente eccezionale. Vengono direttamente da Bari, ci presentano un rock loro, io amo definirlo alternativo come genere, sono composti da Marco, Domenico, Antonella e Walter e ci presentano un brano che troverete esclusivamente su Giamendo, pubblicato da pochissimo, che prende il nome dal loro gruppo. Nova Battere. Perché è giusto che ve lo ricordiate, loro sono i Nova Etere e li trovate su Giamendo. Il gruppo che vi sto per proporre è un altro gruppo altrettanto fantastico come quello che stiamo salutando. Risponde al nome di Astolfo sulla Luna, ci presentano un brano dal titolo Due Minuti d'Odio e sono veramente particolari. Propongono una musica, anche loro alternativa, perché è musica su poesie recitate. Vi auguro un buon ascolto e vi chiedo di prestargli buona attenzione, perché sono gruppi che ci lasciano riflettere, perché in questo mondo dobbiamo ragionare. Un'altra formazione italiana si chiama Deformazione e ci presentano Thor. Solo su Natra Radio Roma, musica originale. Frequenta la chiesa, ma sento dire che gli alcolici sono ammessi. E non c'è niente da fare, attesi che spalasse come un operaio di ponderia che solleva acciaio. Il suo ingente pasto presto lo ucciderà, buco nei paraggi, appari brontolati, messaggi mugugnati, tu dove sei? Troppo coni di grasso e di te, troppo liquido per essere masticato. Il post-punk ci presentano gli MRM, sono una formazione italiana che presentano un album su Giamendo pubblicato proprio di recente, esattamente nel settembre del 2011. Il brano? Semplice, Me, You and Nobody Else. Adesso ci vuole un bel po' di rumore. Loro sono i Wheels, una formazione torinese che nasce intorno al 1995 e subisce una serie di trasformazioni. Si rilancia intorno al 2010-2011 con un'intensa attività live in giro per Torino e oltre e approda su Giamendo con un primo EP che si intitola appunto Big Snake, che è il brano che ci andiamo ad ascoltare. Wake up in the morning, I got a big snake. Go to school with my big snake. And when the girls look at my snake, I say, happy snake. You have very big, you have very strong. Ready to bite. My D is very big. My D is very strong. Please, girls, kiss my dick. Siamo arrabbiati con tutti quei politici che sono in Parlamento e dovrebbero decidere per il bene di tutti gli italiani e non fanno l'interesse dell'Italia, anzi lasciano che ci sprofondiamo, anzi aspettano il cataclisma annunciato. Poi siamo anche arrabbiati con tutti quei politici che scendono in piazza per manifestare. Non dovete stare lì, voi dovete fare opposizione all'interno del Parlamento e dire la vostra e bloccare quelle leggi infami che vanno a discapito degli italiani. Siamo arrabbiati perché continuano a aumentare le tasse. Mi spiegate come si fa a pagare un mutuo, a mantenere una famiglia di 3 persone o 4, a volte anche 5? Con le tasse che ci mettete, guadagnando magari solo 1.000-1.200 euro? E poi uno si trova di fronte allo scandalo dello sciopero dei calciatori. I nostri politici hanno proposto una legge che va a tassare i parlamentari. Nello stesso tempo è stata proposta un'altra legge che va a diminuire il numero dei parlamentari. Mi spiegate dove andate a prendere i soldi che servono all'Italia, se non sempre alle solite persone? È ora di dire basta. È ora di riprendersi l'Italia. Un'altra radio Roma. Buongiorno, hai detto evito di fare satira politica perché se ti limiti a dire che Andreotto è gobbo e Fanfani è corto rischi di fare il loro gioco. Ti metti la coscienza a posto e aiuti la DC ad apparire più democratica solo perché ti fa passare le battute. Sì, era una cosa che credevo fosse vera allora. Oggi? No, credo che fosse anche vero allora, però probabilmente facevo confusione tra la comicità accettata, quindi la comicità quasi ufficiale di Stato, quello che passava in televisione, ti permetteva di dire che Andreotti era gobbo oppure Fanfani era corto. Allora giustamente, quello lo penso ancora, se un regime ti permette di giocare è perché sicuramente ci guadagna qualcosa, insomma, perché fino a quel momento non era stato invece così di manica larga. Però in un altro senso forse mi sbagliavo perché seguivo la comicità sbagliata, perché già allora invece c'era, bastava allontanarsi, andare in un teatro a vedere Dario Fo e e avrei appunto visto che si poteva comunque fare satira politica dicendo delle cose invece molto più indigeste, con l'unica tassa da pagare chiaramente che era quella di non essere poi, di non rientrare nella comicità ufficiale. Però poiché io rientravo in quella comicità, mi sarei vergognato, capito, a sfruttarla in un modo così ovvio, così banale, che avrebbe fatto addirittura il loro gioco. Facile. Mm. Senti, se non avessi fatto l'attore? Se non avessi fatto l'attore credo che non posso risponderti, perché potrei essere condannato per apologia di reato, quindi preferisco non dirlo, perché so abbastanza bene fuori, e poi mo', insomma, il carcere sono già tanto affollato, una ha fatto tanto per mandarli in galera, non ci stai più insieme, poi vai in galera e ci stai insieme, insomma, no, questo mi sembrerebbe esagerato. Ehi, allora vai dritto. Nartra Radio Roma, the web radio that opens your mind. Nartra Radio Roma, the web radio that opens your mind. Brutto, da brutto, da brutto. Nartra Radio Roma, the web radio that opens your mind. Sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo. L'ultimo album è stato pubblicato il 27 luglio del 2011 e ha avuto una marea di ascolti e di scaricamenti. Ci andiamo ad ascoltare un artista da Alessandria che ci presenta un jazz veramente fantastico e sognante. La traccia che ci ascoltiamo è la prima e si intitola Fai come vuoi. Lui è Walter Mazzaccaro. Mazzaccaro. We'll be right back. L'etichetta che ci presenta Cristina Teppati si chiama Vitec Records, ma la trovate anche su Giamendo. Ha pubblicato un album appunto nel settembre del 2011 e ci presenta un jazz abbastanza leggero, frivolo e rilassante. Ci andiamo ad ascoltare Odio il Bebop. Na-na-na-na-tra Radio Ru-ru-ru-ma. Che strazio, questi intervalli, che supplizio. Non c'è umanità né continuità, ma fredda follia, esibizione mania. Io odio il bebop e non sopporto Charlie Parker. Che rabbia mi fa la sua agilità, ginnasta di eccellente abilità. Ma a pensarci bene non posso stare ferma a cantare. Se c'è la goccia, jingles, melodici, ballas, pop music, mi annoio. Alla fine c'è spazio e mi mantengo in esercizio. Il merito va alla genialità di Parker e dei musicisti pop. Tweebadidap, tap tap tabarab, dep dep tweetidon, tappa tweebadibai. Ma a pensarci bene non posso stare ferma a cantare. Se c'è la goccia, jingles, melodici, ballas, pop music, ma annoio. Alla fine c'è spazio e mi mantengo in esercizio. Il merito va alla genialità di Parker e dei musicisti pop. L'artista che vi sto per proporre ha cominciato a suonare a 14 anni un po' per gioco, perché i genitori gli avevano regalato una chitarra. Da allora ha cominciato a esprimersi sempre di più fino ad arrivare agli studi. Oggi suona la chitarra acustica e di sé dice che ama il pop, il jazz, il funk e la dance music. Dell'album che ci stiamo ascoltando dice che Welcome to the Saloon è fatto di canzoni che si riferiscono ad aspetti specifici del sesso. Lui si chiama Federico, lo state ascoltando su un'altra Radio Roma e il brano è Welcome to the Saloon. Hi listener, this work is for you. To open your mind and enjoy nature of sex. Welcome to the salon. To do what you like, to do what you need. La musica che vi sto passando è il tipo di musica che fino ad oggi mi ha emozionato. L'ho ascoltata durante l'estate, l'ho messa da una parte in un cantuccio e ho deciso di utilizzarla la prima occasione, ed è stata proprio questa. Come Paolo Pavanne, che è il prossimo artista che vi sto per passare, ci ha regalato un brano per quest'estate dal titolo Tree of Life e lo state ascoltando ancora una volta su questa frequenza fantasma. Buon ascolto! Thank you. Dagli Stati Uniti, esattamente da Chicago, ci andiamo ad ascoltare Leslie Hunt, un artista che a 4 anni ha cominciato a studiare e a suonare, più che studiare io credo a giocare, sul pianoforte. Oggi l'ascoltiamo con una carica veramente notevole. Il brano si intitola American Dream Man. We're talking grades over brawn and his shoulders are plenty wide enough to lean on. And upstairs he's got it going on. After all, he is an American dream man. He is the ultimate Cleveland. Oh, he's the American dream man. Siamo arrabbiati perché finché si è trattato degli altri non abbiamo mosso una paglia, non abbiamo detto niente, siamo rimasti a guardare il proprio orto, ognuno il proprio giardino. È successo per la Fiat quando hanno fatto firmare un contratto a dir poco obbrobbioso. Credo che i nostri nonni che hanno lottato per quei diritti sindacali, dove la malattia è diventata sindacabile e anche licenziabile per i lavoratori della Fiat, ma presto sarà per tutti noi così, si stiano rigirando all'interno delle tombe. Non bisogna rimanere impassibili come è successo allora. Non facciamo che quest'Italia, questa nostra Italia, sprofondi all'interno di un mare di merda. E ora di riprendersi l'Italia. Si parlava di Piazza Navona e tutto il bailam che ha determinato l'intervento di moltissimi comici, anche giornalisti, politici, soprattutto riguardo allo stile, alla buona educazione, al modo civile, si diceva, di attaccare concorrenti o meglio gli oppositori o la posizione invece che l'opposizione. E questo mi ha fatto veramente indignare, perché le parole più dure sono venute proprio da quei personaggi che sono intorno al principe cosiddetto, che normalmente usano dei linguaggi di una bassezza veramente sconvolgente, trivialità incredibili, e soprattutto quello che è impressionante è l'atteggiamento che ha avuto Berlusconi, il quale si è detto quasi schifato, proprio lui che non fa altro che entrare a piedi giunti dentro le situazioni senza rispetto alcuno per l'intelligenza, per la civiltà, per l'educazione, per il modo che tratta le donne che è intorno proprio a lui. E poi naturalmente le leggi vicino a sé, tanto le paga lo Stato, mica lui, che è il massimo. If you have something to confess, do it now. Give yourself some peace. Salutando l'artista che state ancora ascoltando sotto la mia voce, che viene dagli Stati Uniti e risponde al nome di Anitech, ci spostiamo in Italia da Paola Arcieri, che ci presenta un brano cantato insieme a Click Dinamite dal titolo Upgrade You. Solo su Nata Radio Roma, musica originale. New page, introduce a new things that upgrade you. I cannot, can I up, let me upgrade you. I don't need something that real bad goes for my tour bus. Somebody get security to escort us. They go the long way, but we take the shortcuts. Give me the blind day, long way shortcuts. You know the flow sick, came in on the small bus. So give the D-cup, C-cup, small bus. They judge me like the girls on trial, but every time that I call my it just go, go wild. Got the domino effect in the floor of passing out. We'll let the bikini touch, they got the S's hanging out. See my shoes getting nuts, so I call the cashews. Every other city, there's another Robin. I see a Wayne goes, I see a Drake goes. You know the real bitches, let me fuck the fake girls. So if you're pretty, I sign titties. I got a key to every motherfucking city. Why not let me upgrade you? I'm a mother gay. Just bitch and make a sign of Buffalo labels. Upgrade you. I can up, can I up? Let me upgrade you. Let me upgrade you. Why not let me upgrade you? Flip a new page. Introduce with Christy Cavalletti. And when I'm in Miami, I'm a curtain kind of call you. And when I'm in the AM with Ciara, always carry. I'm feeling like a diva, then I am Mariah Carey. I'm in the UK, I am CMIA. Superhero by night, rapper, rapper by day. And if I just wanna talk, I might eat some money. If I need a bad bitch, Angelina Jolie. My terrier girls like Madonna, more death for Donatella. And nothing you can tell her, cause she get the mozzarella. She looks just like Rihanna, she walk with Wilhelmina. Only rocking Galliano, she might be Filipino. Be shipping Pellegrino, been watching the Pacino. She got problems, need for kilo. Anyway, yo, eat a green show, and I tell her, say strong J. I'm out in Paris, motherfucker, with Beyonce. Don't let me upgrade, so I'm a mother game. Just get to make a sign of buffle ladies. Upgrade, you don't scare up. Can I help? Let me upgrade. Don't let me upgrade. Don't let me upgrade. To flip a new page. Introduce it to some new things. I be the D-boy who infiltrated all the corporate youth. They call shots, I call all the boots. Jacob the Julius, Bobos, Lorenz Schwartz, said I do. It's big balling, baby, when I carry you. I'm talking five bags and five pairs and rooms at the Blue Max and roommates. You on the verge of a new match, cause I rock on your fingers like a tumor. You can put your hand on a new purse. It's humorous, so me they watching and wish the sergeant at the island set me on for my pickles. Mafioso, oh baby, you haven't seen a settle. No, not the car, but everywhere we are. You shouldn't see a star, this is I live and I live. My best are cut to see you for the most. How old is you tomorrow? Now look how much I saved you. Mama, let me upgrade you. Just when you think you had it all, big ink, no collection car. Could see your life feeling really with me. You're my prize, so everything I keep running high. You're dying to see it. Compare what I've achieved. Mama, let me upgrade you. I'm a metal page. Just bitch and make a sign of purple labels. Upgrade you. Knock it up. Can I up? Let me upgrade you. Mama, let me upgrade you. Mama, let me upgrade you. Flip a new page. Introduce you to some new things that upgrade you. Knock it up. Can I up? Let me upgrade you. Bene, siamo così giunti al termine di questo podcast. Dopo circa un'ora di trasmissione vado a salutarvi con un artista che si chiama The Dog Above e ci presenta due brani molto corti che vi li passerò uno appresso all'altro. Il primo si chiama Friends e l'altro The Witch Looper Tour. A dopo per i saluti. Nartra Radio! Come? Nartra Radio! We'll be right back. convinti che possiamo ancora farcela, convinti che possiamo riprenderci la nostra Italia e ritrasformarla in un paese che produca, che lavori, che non si divida, dove ci possano essere dei governanti che abbiano l'interesse per il paese più che per il proprio, vi vado a salutare con un gruppo che si chiama Gli Scovati e ci canta Il Piccolo Partigiano. Questo podcast non ha l'intento di costruire un movimento politico, assolutamente, ha voglia di scuotere le coscienze ed è il motivo per cui è stato fatto. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento ai nostri prossimi appuntamenti di dirette, podcast o recensioni o quant'altro sulle nostre frequenze fantasme. Ciao. La sincerità di questi comizi li facciamo dare in capo. Il deputato, a dirla fra di noi, al comizio c'è niente contro Oia. Tanto che a me mi disse, oddio che noia. Me lo disse, è verissimo, ma poi, sai come cominciò? Disse, è con gioia che vengo cittadini in mezzo a voi per onorare i martiri e gli eroi, vittime del pontefice e del boia. E lì rimise fora gli ideali, gli schiavi, i tiranni, le catene, i re, i preti, gli anticlericali, e poi parlò dei principi sui. E allora pianse così bene che quasi ci rideva pure lui. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima. Ogni qualvolta che mio nonno mi parlava del 40 del 43, seduto nella sera dalla faccia si capiva che ancora in lui bruciava, ancora lo sentiva quel retrogusto forte di lotta ancora viva. Continuavo domandando se potesse mattonare un giorno l'ombra di un regime. Allora con l'aiuto del bastone in piedi lui si alzò, con tono protettivo mi rispose, io spero di no. Ma più paese corrotto dai piedi alla testa, fratelli d'Italia, l'Italia dov'è? Sarà ben nascosto ma il regime c'è, fratelli d'Italia, l'Italia se desta, paese corrotto dai piedi alla testa, fratelli d'Italia, l'Italia dov'è? Sarà ben nascosto ma il regime c'è. Perché non ha l'hanno scritta uomini, e abbiamo 20 anni di galera di fascismo sui propone, quando gli hanno preso per schiera, e sono stati anche che questo tornasse più. Forma di governo banalmente democratica, la Costituzione che il valore di una volta non ha, controllo commerciale della mente e dell'identità, privatizzato della pubblica università, e nel cercarsi un futuro, che l'operaio con le spalle al muro, che l'operaio con le spalle al muro, che cos'è certo, cos'è sicuro, anche un bavaglio può servire da scudo, anche un bavaglio può servire da scudo, su scudo protettivo contro giudice legalità. Massoneria, macelleria, di uomini di verità. Agli italiani piace non avere della luce nei magheggi che li uduce col sorriso tese cuce. Dimenticano forse chi gli ha reso poi la voce, non il papa con la croce e le tante armate forze. Con fucile, cuore e mano ha varcato prati e monti inseguendo libertà. Ma chi da partigiano con fucile, cuore e mano ha varcato prati e monti inseguendo libertà.